Manda un messaggio, scrivemelo. Chi è che conduce? Chi è che compie gli anni? Tanti auguri, se sempre in me. Capito, tu? Tanto. Sempre ho capito, oggi sta un attimo, che sto prendendo un telefono. Scrivelo, io sto per sapere chi è, per darmi questa idea. Facciamo l'amore, caparocce. Mamma, super bomba. Allora, come andiamo? Ehi, la poggiamo al muro, che si è stata dal letto. Meglio così. Fate, non c'è problema, già sono qui. Regoliamo. Yes. Ok. Facciamo così. In zona? In zona? No. Qua sono a casa. Riesco a fare che sia antenna addirittura. O quel che vuoi. Cosa? Deve essere pompando. Negativo. 10. Quando fischio, anche a 100, 150, quasi. Tutto bene, molto bene. Già ti ascolto bene, non ti preoccupare. Adesso ho attaccato, mi senti bene? 20 over 9, my friend. Sto recuperando un mobiletto di un vecchio impianto stereo. Di un vecchio Pioneer che era di mio cognato, il mobiletto, e invece devo adesso pulire il mio impianto stereo. Non so se ti ricordi, negli anni, fine anni 80, che adesso sta aumentando con gli anni, ora un po' di musica. C'è un culo, ho detto così, ma il senso era c'è un culo, io alla tua età le radioline dentro le cassettine della frutta dovevo mettere per ascoltare un po' di musica, ok? Vabbè. Ah, è antico, c'è un figo garage, non so venire, ma ce n'è una di quelle antiche di pericolata, figurati. Allora, ecco, poco a presto arrivi, Gioia de mamma. Sentino piango qua. Compresso sono, perché l'ho appena acceso. Deve scaldire questa cosa. Stavo pompando con il 231. Ah, si è staccato. Sì, si è sceso di 10. Nulla più. Cazzo quanto scaldano però, porca miseria. Io sto andando col minimo sindacale, ma è... sto sentendo la... già i dissipatori che sono belli caldi, li caldi a cipicchia. Cosa che ti volevo dire? Ho venduto il mio 440, te l'avevo detto. No, quanto l'hai venduto? 400. venduto 4,20 compresa la spedizione, mi è costata 30 euro. Giù a Cagliari l'ho venduto. Ah, fatto bene. Romanco, ti sei fatto un po' di notte, ti sei pigliato l'ala, ci sono ancora. Specie a quando si apre qualcuno vuole mettere avanti. Buonasera, ci sono io, ero al telefono, stavo facendo una cosa. Ma Massimiliano c'è ancora o si sono spostati? No, sono tutti al telefono, sono Antonio anche forse. Buonasera, Luigi. Senti, ora ero un attimo, ho lasciato a loro che c'erano loro al telefono, poi ho acceso e ho sentito a voi, dai. Buonasera anche per voi. Ciao G. Aspetta che c'ho un'agendina in mano che stavo al telefono, stavo segnando un po' di appunti e che la appoggio sopra al mio ufficio. Italia, soldato. Ciao Gigi. Ma chi è questo che dice ciao Gigi? Mi sembra Salvatore o sbagliando questo? Non ti sbagli. 100%. Salvatore, ti abbiamo lasciato con la sorella di Claudio e penso che ti sei ripreso. Guarda, mi ha fatto venire, se vuoi ridere, questo è il momento buono, mi ha fatto venire un attacco d'asma, ti ho detto tutto. A te che appoggio questa agenda, un attimino. Buona e poi sera. Che se non è possibile, Popo, ma ha fatto così ridere Claudio, era in vena, ne stava sparando una dietro l'altra sulla sorella. Fatto sta che ridendo, mi è venuto l'attacco d'asma, stavo respirando male, pensa un pochettino. Eia, ciao Sandro, ho guardato una cosa per te prima che mi hanno mandato in Facebook, stavo guardando una cosa per te Sandro. Cosa devi toccare, capito? affitto, quanto devi spostare, tutto quanto. Piattosa. Sono rientrato. K, ok, ok, GG. Va bene, va più che bene, bene. C'è solo da tagliare con la forbice un filo, basta. C'è un ponte fatto bello, e in quel ponte lì c'è un filo che fa un ponte, un filo giallo, e lo fai, c'è il segnale, c'è il punto dove lo vedi, lo apri, lo vedi, tagli quello e c'è il canale sopra e sotto. A posto per la maglia. Io va bene, la tutto oggi. Cambio. Sì, ma siamo 465, giusto? Siamo di frequenza, vediamo un po', te lo dico subito. I 465, siamo 465. Sì, ma questo come numerazione cosa sarebbe? Perché questi me li sono segnati separatamente, poi li voglio memorizzare. Il 45, se arrivi 40, 41, 42, 43, 44 e 45, capito? Se ne canali sopra. E allora ne manca uno però, il 415 non viene numerato? Abbandoni 73, ma solo te lo posso guardare, aspetta che te lo guardo sull'altro apparato un attimino. Perché il 40 finisce con 27.405, quindi se diamo un passo di 10 sarebbe 415, 25, 35, 45, 55, il 65 sarebbe il sesto. 27 e 415, scende il canale 41. 415 e 41, quindi 25, 32, 35, 43, 45, 44, 55, 5, 65 sarebbe il 46. Allora, 455 è il 44, perché io ho la tabella davanti, dal 27 435 salta, che è il canale 43, salta al 27 455, il 27 445 non c'è qua. Ho capito, quindi 435 lo escludo, quindi faccio 1, 2, 3 il 45, 4 il 55, 5 sarebbe il 65 e 6 il 75, gai este. Perfetto, ok, thank you very much. Gigi, tu non mi hai dato il parere su questa cuffia microfonica, cosa ti sembra? Ho trovato il parere sulla radio, non ho capito. Sulla cuffia microfonica che sto usando io. Ma cos'è questa cuffia? Non so neanche che, ma la cuffia che ti sei messa nelle orecchie, che cos'è? No, è uno scherzo, cosa stai dicendo? No, la cuffia con il microfono incorporato, no? È bella questa cosa, ma va bene, se tu c'hai una cuffia col microfono incorporato è ottima, esce bene, solo che qualcuno te lo doveva mettere in camion, ma non va bene che ti fa il verbale, devo essere un orecchio solo coperto, l'altro deve essere libero. Che capirai, smonti un attacco e lo lasci libero, niente di più facile, si possono smontare. Sì, ma deve essere, l'orecchio deve essere libero, no, senza il coso radicolare, capito? Tu smonti la cuffia, ad esempio, che ne so, di destra, e ci metti la placchetta che si appoggia semplicemente sopra l'orecchio, nella cavità sopra l'orecchio, capito? Quindi lascia completamente libero l'orecchio. Come positivo, né? Perché lo so, un collega che gli hanno fatto 150 euro di verbale e due punti di patente, mi pare, o due punti, sì, due punti di patente, o cinque, no, due mi pare, non so perché sono cinque o due, perché il telefonino aveva tutte e due cuffie, tutte e due auricolari, uno nell'orecchio, capito, guidando. Vero, infatti un orecchio deve essere sempre libero, comunque deve essere sempre libero, perché non puoi isolarti dal contesto nel quale ti trovi guidando. Può essere un'ambulanza, può essere un clacson di soccorso, una chiamata d'aiuto o quant'altro. Non puoi isolarti, quindi un orecchio deve essere libero. Io non sono d'accordo, perché io ho una nuora sorda, sordomutta, no, non è mutta perché parla, è sorda, però c'è qualche amico di loro, amico, amici e cose, e guidano la macchina e sono sordi, non sentono quelli, eppure guidano la patente, c'è la vettura, la guida. Che vuoi che ti dica? Ma boh, signori, ci sentiamo, io continuo a montarmi l'impianto stereo, che lo voglio finire prima che rientri mia figlia. Sai, stacco la cuffia e lascio l'altoparlante della radio aperto, così vi ascolto e casomai dentro tra un po'. Buon proseguimento a tutti, bye bye. Ciao, sono attenzione che... Cosa? Claudio, non ho capito cosa abbiamo trovato. Lo sposo, Salvatore, niente, è fatto venire l'asma, cos'è che gli è venuta? Non mi ricordo più, l'asma gli è venuta e niente, è stato anche male. La bambina tua, Claudio, cacchio, mi ha fatto talmente ridere che oltre alle lacrime ho anche un attacco d'asma, mi è venuto, stavo respirando malissimo. Vabbè, dai, ci sentiamo più tardi, che sto montando l'impianto stereo a mia figlia, e sono nel mezzo della faccenda, affaccendato. Ci sentiamo dopo, dai, vi ascolto comunque, dai, sono in QRX, ciao ciao. Se vede a tua sorella gli succede quello che è successo al marito, altre che colpo d'asma gli viene. Thank you. Claudio, 40 e 48. Perché non ce l'hai in 50? Dove ce l'ho? Vabbè dai, ma mi va bene anche quella. Ci sono sotto, ci sono le bande laterali, ma va bene lo stesso. Sui canali alti, quindi dal 45 in poi, salute, quindi non voglio, non posso spostare la vetta, se no adesso ne avrei approfittato, intanto sono in infortunio tutto luglio, anche oggi, quindi no, non ci sono problemi, capito? Anzi, come regola dovrei avere dal 4 luglio, proseguo fino al 4 agosto, quindi immagino che non ho problemi, però non sono in metà forma, quindi preferisco non allontanarmi, perché mi vengono questi voli fortissimi che attuano la notte, soprattutto non riesco a dormire, se voglio anche un braccio a piccare, un casino. Nonostante mi abbiano già tolto tutto, però ho sicuramente problemi, ho un tendine lesionato, se sono a corto di tarlo, quindi adesso con la fisioterapia vediamo se riusciamo a mettere tutto a posto, se non vorranno anche operare il braccio. E quindi tutto qua, vabbè. Sono volentieri avrei fatto una bella uscita a Gigi, ma volentieri veramente. Avanti Massimiliano. Io ho visto su Facebook che c'è anche un po' anche lui, io l'ho visto. Cioè, sono cose belle, anche a me devo operare, fra un po' a settembre. Casino, grazie. Thank you. 7, mi pare ce l'abbiamo alle 8 e mezza l'aereo, in mezz'ora siamo a Milano. E niente, tipo a Paul, infatti Daniele quando mi ha chiamato, ci ho fatto il biglietto, no, ho parla con Giovannino, perché noi siamo ospiti da Pippo Apollo, e chiede a Giovannino, perché lui Pippo Apollo si stava offendendo, assolutamente non voleva andare niente, ha detto di non prendere macchina a noleggio, viene lui, tanto è vicino a casa sua, all'aeroporto, viene lui a prenderci, come arriviamo, e niente, a casa sua, ci ha prenotato la cosa per dormire vicino a casa sua, e niente, sono a dormire la notte, andiamo quando entriamo da questo pranzo, e niente, macchina, c'è la macchina della moglie, pensiamo a prendere la macchina della moglie, e viene lui a prenderci in macchina, non vuole prendere macchina, non legge a prendere nulla, e niente, ci facciamo la spaghettata come abbiamo fatto gli altri anni, ha detto, a casa sua, poi la sera andiamo con comodità alla festa, e poi ce ne porta lui all'albergo dove andiamo a dormire, e niente, poi domenica siamo ovviamente a pranzo da lui, tanto ce l'abbiamo la sera l'aereo per tornare qua, siamo ovviamente da una giornata di città, in campagna, campagna con un prato verde, una piscina, non so se avete mai visto in Facebook le cose, se siete entrati da Roma, che ci sono le foto con la piscina, la cosa, e niente, vuole a casa sua, e niente, ecco perché facciamo due giornate sabato lì, come abbiamo fatto la volta che eravamo, che siamo andati, che eravamo Tommaso Civa, io, Giovannino l'originale, eravamo una ventina di persone la volta, abbiamo fatto, tanto c'è delle verande grandi, lui fuori nel giardino, al fresco, e abbiamo fatto una tavolata, una spaghettata e il bagno in piscina, e abbiamo passato una bella giornata, e poi la notte siamo andati tutti in gruppo alla festa, e quest'anno niente, vuole fare così e via, a casa sua, a pranzo, sabato e poi notte, dove c'è della grande festa, l'indomani con comodità ci alziamo, andiamo colazione e tutto, poi viene lui a prendere, cioè ce ne andiamo, andiamo normalmente da lui, passiamo un'altra giornata lì, capito? E poi ci prendiamo l'aereo e ce ne andiamo. Ascoltato. Riordinando, ma si è posto tutto io qua. Cattarella, 45, io. Al 45, che c'è 45. Ma che sono, guarda se c'è propagazione, guarda, vuoi vedere. Siamo al 45, Massimiliano. Cosa dici? Siamo al 45. Non scusate, immaginate. Così ci facciamo qualche passatino, là. Un po' di casino per Massimiliano. Tutti non hanno parlato io. Mamma ha detto una mezz'ora, dai. Signore, pago di uno. Adesso? Per un millesimo di secondo? Sì, come ha schiacciato la portante, non giri di radio, Santiago 1, e poi si è andato a fondo scala, radio perfetta di nuovo. Controlla e vedi un po' se sta andando o no, guarda un po'. Sì, sì, adesso sta a posto, lei ha detto oggi. Non so se è importante o qualcuno che sta parlando, eh. Attenzione, Vela 1, ascolti qua, lo sparviero senza le ali, cambi. Forse è chiaro qua. Oi, Lugariello. Ciao, Luca. Gira sempre bene. Sì, Antonio gira ancora meglio. Ce l'ha ancora, dai. L'altro invece è l'Omega. Non è più. piace più l'Omega, di modulazione. Che tipo il Cosmo, il Magnum, ma dai, un affare del genere. Positivo, positivo. Infatti sto dicendo, sono già come l'8001, capito? Quello là è già come l'8001, no? Voglio dire, c'è le stesse funzioni più o meno, diciamo, dell'8001, capito? Poi se vuole una cosa, perché lo vuole prendere, perché l'8001 è omologato, lo può mettere nel furgone, è un conto, quello è un altro che ce le manda l'attorale, lasciandolo così è omologato e quello lo puoi adoperare, c'è anche le bande laterali, quello si è mai legato, quindi come lo compri, quello c'ha tutti i canali ed è omologato, capito? Lo so, è omologato, il mio è legato, capito? Il mio è legato, allora non lo posso usare. Oh signor, dai che mi hanno chiamato giù a prendere mio figlio, dai. Sentiamo dopo se coincide, dai, se no buona serata e buona continuazione, vi lascio per il momento, cambi idea. Positivo, Massimo, dai, poi sto aspettando al santo e gli faccio quel lavoretto che... E niente, dai, io ho tutto lo schema di farlo e così lo provo pure se va nei canali di sopra e sotto. Ma quale, la 48? Positivo, dai, positivo, glielo apro io che uso i canali, già non ci vuole niente a farlo, c'è a tagliare solo un filo e basta. Ah, perché lui c'ha quello praticamente omologato normale, quello che c'ha nel furgone. Positivo, c'è un ponte, c'è un ponticello, un filo che fa un ponticello e... per non andare nei canali di sopra e di sotto, capito? Tagli quello e lui va nei canali di sopra e sotto pure, ho capito. Allora, ma come interruttore cosa usi? Quello MFM, allora le togli l'FM? No, rimane tutto... E fate il disposto, Claudio. Allora, tu una volta che tagli quel ponticello, cosa succede? Lì esce già, se tu vai in... devi girare il pomello, devi andare a 40. Quando arrivi a 40, si inizia a 41, va più, esce più, capito? Invece, quando vai sotto, arrivi, torni indietro, arrivi 40 indietro, e vai e passi 39, sei meno, sei sotto. Hai capito, te ne dà 120 canali e già predisposto così, capito? Deve tagliare solo il filo, come l'8001, l'8001 deve tagliare un filo, per avere tutte quelle 10 bande deve tagliare un filo, un ponte deve interrompere e basta. Ah, aveva pure positivo, ma ci mi piace, ci sentiamo dopo, ho capito, è quello già predisposto, vai. Io pensavo come questo qua bisogna farle la modifica diversa. Va bene, va bene. Buon volito, riprendi, cambi. esatto. Sono tutti uguali, claro, non cambia niente, sono tutti precisi. Ma 650 stanno bene, vediamo un attimino, bombolo. Guarda, stai che provo a vedere se è libero, cla, provo un attimino. Ma devo atterrare anche lì, oh, cla. Senti, Claudio. Sì, ah. Se vogliamo andare, andiamo, ma ci sono bande laterali più forti di qua. Allora andiamo in basso, la barca alle 14. O sul 14, dai. Passo in quello di giù, la vita per scendere giù. Ehi, vai giù, qua sul 14.